Ingrid. Dopo colazione disse a Lovisa di giocare da sola e andò a lavarsi i denti, evitando di guardarsi allo specchio. Poi abbassò il coperchio del water, si sedette e fece qualche respiro profondo. Tommy era stato a casa pochissimo e anche nei rari momenti che avevano passato insieme, lei non era quasi riuscita a rivolgergli la parola, rispondendogli a malapena quando le chiedeva qualcosa. Eppure, lui sembrava non essersi accorto di niente. Una parte di lei voleva solo andare avanti, fingere che non fosse successo niente. Centinaia di migliaia, se non milioni di donne, vivevano con un compagno infedele. Sapeva che Tommy l'aveva già tradita una volta, e allora l'aveva perdonato. Cosa sarebbe successo se non l'avesse fatto? Lovisa sarebbe stata costretta a crescere con due genitori che non vivevano insieme. Lei probabilmente avrebbe ripreso a lavorare come giornalista e trascorso intere giornate fuori casa. Sarebbe stata sempre nervosa. Si schiarì la gola e tornò in cucina. Su una mensola accanto al grande frigorifero in acciaio inossidabile c'era un computer Apple, aperto sull'agenda sua e di Tommy. L'idea era di segnare gli impegni della settimana per sincronizzare le loro giornate. Quelle di Tommy erano in blu, i suoi in rosso. Circa 9 punti su 10 dell'elenco riguardavano suo marito. Riunioni, riunioni, riunioni. Ricevimenti, feste, incontri dell'associazione giornalisti. A parte 3 sedute in palestra, tutti gli impegni di Ingrid erano collegati a Lovisa. Andarla a prendere o accompagnarla, lezioni di danza, calcio, fare i compiti. La settimana successiva l'unica scritta che rompeva lo schema erano i colloqui insegnanti-genitori, segnati in verde perché era un'attività comune. Tommy si era stoicamente offerto di partecipare. Ingrid chiuse irritata il calendario, aprì il browser e scrisse nella casella di ricerca su Google: «Marito infedele. Cosa fare?»